Torre, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Un altro episodio di violenza sessuale è avvenuto a Trieste in pieno giorno nella centralissima via Udine, dove una donna è stata aggredita nell'ascensore di uno stabile di via Udine. Come dicevamo, l'aggressore, un tunisino ospite di Casa Malala, è stato individuato e arrestato. La Lega ha congresso oggi a Martignacco con un candidato unitario per il ruolo di segretario, il senatore Marco Dreosto, che dice di essere pronto. 50esima edizione per la gitta cicloturistica non competitiva Pordenone Pedala, con partenza in piazza Risorgimento e arrivo nel Parco Galvani dopo 39 km di percorso che ha toccato diverse località della destra Tagliamento. Le 12, 15 minuti e 50 secondi, ancora un buongiorno e una buona domenica da Maria Spezia e da Giorgio Bearz, che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia del 3 settembre. Anche oggi in apertura purtroppo dobbiamo cominciare con un caso di cronaca, con un altro episodio di violenza sessuale che è avvenuto a Trieste in pieno giorno nella centralissima via Udine, dove una giovane donna di origine straniera è stata prima pedinata e poi assalita nell'ascensore di uno stabile di via Udine. L'aggressore, un tunisino ospite di Casa Malala, è stato individuato e arrestato. E questo episodio segue di poco quello accaduto sempre a Trieste ai danni di una minorenne nella vicina piazza Vittorio Veneto. Un pomeriggio estivo si è trasformato nel peggiore degli incubi per una giovane donna che si stava recando a casa a Trieste, non lontano dal centro diurno di via Udine. Stava ascoltando musica con le cuffiette e non ha sentito che qualcuno la stava seguendo nel portone aperto del suo stabile. Quel qualcuno è anche entrato con lei nell'ascensore. Chiuse le porte dell'ascensore, l'uomo si è spogliato e l'ha aggredita. La donna si è difesa, ha gridato ed è riuscita a divincolarsi dalla presa dell'uomo, che è scappato non appena l'ascensore ha raggiunto il piano dove abita la donna, che si è recata all'ospedale, ha chiamato i carabinieri che hanno arrestato l'uomo, un tunisino di 21 anni, ospitato a Casa Malala. L'uomo, indagato per tentata violenza e lesioni personali, si trova in carcere. Nel suo primo interrogatorio ha cercato di addossare la colpa alla vittima, smentito però dalle immagini delle telecamere. Giovanni Schiavone, presidente dell'ICS che si occupa della mediazione culturale a Casa Malala, ci spiega che non conosce il caso nei dettagli e ricorda che sono pochissimi tunisini che raggiungono Trieste. Dei 6.400 migranti passati l'anno scorso attraverso le strutture di accoglienza triestine, 12 soli erano tunisini. Non nasconde Schiavone che i migranti che arrivano dalla rotta balcanica spesso provengono da culture dove il ruolo della donna è molto diverso rispetto a quello che vige da noi. Per questo nelle strutture di accoglienza, dice, abbiamo i corsi di lingua e cultura italiana in modo da prevenire situazioni equivoche o addirittura gravi ed esecrabili. Schiavone evidenzia che non ci sono stati in passato a Trieste casi di violenza sessuale con protagonisti ospiti delle strutture di accoglienza. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Passiamo alla politica. La Lega ha congresso oggi a Martignacco con un candidato unitario per il ruolo di segretario, che è il senatore Marco Dreosto, che dice di essere pronto. Senatore, candidatura unica è una prova di forza e di unità, oppure la parte di opposizione interna al partito era troppo debole per avanzare una sua propria candidatura? No, assolutamente. Direi che il movimento sta andando su una candidatura unica dovuta al lavoro che è stato fatto dalla squadra, al lavoro che è stato fatto dai militanti, dagli amministratori, nell'ottica appunto di dare continuità soprattutto al lavoro che è stato fatto, con l'obiettivo che ci siamo anche dati di portare dei miglioramenti e soprattutto di traguardare la Lega nel futuro, mantenendo quella che è la nostra identità, le nostre radici, hanno portato a questa, diciamo, condivisione di intenti su un unico candidato. La Lega, primo partito votato in regione, che Lega sarà quella da oggi in avanti con il Friuli Venezia Giulia? Ma noi vorremmo dare continuità al lavoro che è stato fatto, perché abbiamo dimostrato nelle 4 tornate amministrative da quando io ero commissario e anche alle elezioni regionali che la Lega si conferma il primo partito di questa regione al traino di una coalizione di centrodestra che unita vince sempre, e questo è sicuramente un dato positivo a cui noi dobbiamo dare continuità. Quindi ci parleremo con gli alleati, perché questo sistema funziona, è un sistema da esportare ovunque, è un sistema che dobbiamo mantenere e migliorare. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora uno sguardo alla situazione del meteo. Il cielo in prevalenza poco nuvoloso sulla regione, queste le temperature: a Trieste 25 gradi, il mare è calmo con temperatura di 24 gradi e mezzo, a Gorizia 25 gradi, a Udine e Pordenone 24 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 22 gradi, a Forni di Sopra e Tarvisio 21, a Piancavallo 20, a Sappada 18 gradi e mezzo. Sul Monte Zoncolan 17 gradi e 5 decimi, sul Monte Lussari 15 gradi, sulla costa a Lignano 24 gradi, a Grado 25, la temperatura del mare in queste due località balneari è di 25 gradi. Le previsioni dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per oggi pomeriggio: cielo da poco nuvoloso a variabile, per velatura ad alta quota, venti di brezza, temperature in aumento in montagna, qualche maggiore annuvolamento. Per domani il cielo sarà in genere poco nuvoloso, probabilmente anche sereno sulle zone sudorientali dove soffierà bora moderata. E ora finalmente una bella notizia: agosto si rivela un mese fortunato per una 59enne di Udine che grazie al bingo ha centrato una vincita di oltre 5.000 euro con una giocata di soli 0,60 centesimi grazie al numero 53. 50esima edizione per la gita cicloturistica non competitiva Pordenone Pedala, con partenza in piazza Risorgimento e arrivo in Parco Galvani dopo 39 chilometri di percorso che ha toccato diverse località della destra Tagliamento. Sono arrivati in 4.000 stamattina in piazza Risorgimento, Pordenone, partenza in largo Demetrio Moras, tutti pronti alle 9:15 per la 50esima Pordenone Pedala, storica cicloturistica cittadina. Un percorso ad anello di 39 chilometri che abbraccia diversi comuni del territorio: Cordenon, Soroveredo in Piano, Fontana Fredda, Porcia, Prata, Basiano e Azzano Decimo, per concludersi al Parco Galvani di Pordenone con la pastasciuta offerta dalla Brigata Ariete, la consegna di premi e riconoscimenti. Pordenone Pedala, ha commentato il sindaco Alessandro Ciriani, è una delle manifestazioni cicloturistiche più amate dai pordenonesi e dagli abitanti del territorio circostante, un'iniziativa che consente di apprezzare gli scorci più nascosti e suggestivi del nostro territorio. Un'emozione, il 50esimo anniversario per il presidente Luigi Tomadini, che ha ereditato il testimone da Demetrio Moras, che ringrazia i 180 volontari che hanno reso possibile l'organizzazione. Un'edizione speciale questa, dunque, che ha anche la sua sigla, due spettacoli e un libro celebrativo. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Siamo allo sport calcio. L'Udinese avanza piano in classifica allo Stadio Friuli, ottiene il secondo punto di questo campionato pareggiando con il Frosinone per 0-0 e deve anche ringraziare il portiere Silvestri, che si è dimostrato decisivo in più di un'occasione. Sentiamo il commento a fine gara di mister Sottil. Noi abbiamo sofferto i nostri errori perché abbiamo approcciato molto bene, poi adesso me la devo rivedere con calma, però quello che è stato lampante è che dopo un buon inizio abbiamo perso 2-3 palloni in disimpegno, li abbiamo catturati, li abbiamo ridati a loro, poi si creano situazioni difficili su questi break veloci dove loro sono bravi e siamo andati un po' in paura, siamo andati un po' in panico. Questo non deve capitare, dobbiamo stare sereni, tranquilli e ricominciare a giocare. Secondo me nella parte centrale del primo tempo non l'abbiamo fatto, anche se ne abbiamo avuto le nostre occasioni, perché comunque la squadra ha calciato 6 volte in porta, quindi è stata presente. Nel secondo tempo abbiamo iniziato anche bene, molto aggressivi, abbiamo una grande occasione con Lucca. È chiaro che dobbiamo crescere e migliorare. È una squadra che è ancora un po' in rodaggio, sono arrivati tanti giocatori nuovi. L'importante è che siamo mentalizzati, che quest'anno si è voltata pagina, perché c'è stato anche un po' di un ricambio generazionale, quindi ci sta un pochettino di assestamento, io lo so, quindi c'è da lavorare, non è un problema, siamo qua per questo. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Siamo al basket. L'Italia del commissario tecnico triestino Pozzecco ha superato Porto Rico per 73-57 e torna ai quarti di finale di un mondiale dopo ben 25 anni. Passiamo al ciclismo. Luca Vergallito ha vinto ieri la tappa regina del 59esimo giro ciclistico internazionale del Friuli Venezia Giulia. Il nuovo leader della Generale Francesco Galimberti, oggi l'ultima tappa con l'inedito traguardo a Trieste al Castello di San Giusto. Entra nella fase decisiva il 37esimo trofeo di calcio giovanile Nereo Rocco per squadra under 17. Si giocheranno questa sera infatti le due semifinali, impegnata anche l'Udinese, l'unica regionale rimasta in gara, che alle 19:30 affronterà la Lazio sul campo di San Canzian di Sonso. Sentiamo allora come sono andate le partite di qualificazione disputatesi ieri. Ancora una vittoria per la Lazio, che rimane imbattuta nella prima fase del trofeo Rocco, vincendo allo stadio di Varmo 6-2 contro la squadra slovena del Gorizia. Successo anche per l'Udinese, 5-2 al Padova sul campo di Aiello del Friuli. L'allenatore dell'Udinese, Mirko Stefani. Oggi i ragazzi, diciamo, hanno fatto una prestazione molto, molto buona, soprattutto rispetto a ieri, dove siamo mancati sotto tanti punti di vista. Oggi volevo vedere una reazione, c'è stata, caratteriale, tecnica. Oggi diciamo che ci siamo meritati il passaggio del turno. Sconfitta invece per la triestina, battuta dal Verona 4-3. Oggi domenica le semifinali, alle 19 a Cividale del Friuli, Lazio-Verona, alle 19:30 a San Canzian di Sonso, Udinese-Vicenza. finalissima lunedì 4 settembre ore 19:30 stadio Bearzot di Gorizia. Gradisca Disonzo, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Segnaliamo ora alcuni appuntamenti culturali di oggi. Per la musica, il Festival di Musica e Montagna Carni Armonie chiude la 32esima edizione con un concerto dell'Apollon Quartet e musiche di Dvořák e Mozart a piano d'arta nella chiesa di Santo Stefano alle 20:30. Le donne di Andrew Lloyd Webber, il concerto in programma a Pordenone alla sala prove Gabriel Fauré alle 20:45. Per gli spettacoli l'attore Andrea Ortis eseguirà una lettura scenica del testo pirandelliano Novelle per un anno a Bottenico di Moimacco a Villa dei Claricini Dornpacher alle 20:45. Ed è tutto per questo appuntamento con informazioni, redatto e condotto da Maria Spezia e Giorgio Bearz, in collaborazione tecnica di Giuliano Pecorari, ha collaborato in redazione Manuel Bussani. Prossimo appuntamento con il GR alle 18:30. A tutti voi l'augurio di una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.